attento, Luca, la befana. E Lu. Dormito sei. Beh, Befano. Un sacco di galbone a te. E le addirittura si sta parlando in campagna, a Falanghigia. Aspetta che mi sto piegando una stufa. La sera posta. Bello beh! Mangiando assai le caramelle della Befana. Oggi spaghetti alle cozze, carciofe patate, orate in forno con patate, piccantelle, beanda, bello beh! E deve paletta di giù, Gio Maria sarà in campagna, sta fissendo al fresco, da risveglia, a mani, e da vicino penso che sia stato affittente, sarà fusato se sta l'albero di un gacco. Ma lei ha detto che avete viaggiato con il cupolo. Ma lei ha detto che avete viaggiato con il cupolo. Non ce l'ha pensato di rappresentare. A me mi ha regalato il cupolo, manno manno. E allora, è la Befanina mia, e no, che è il treno. Stati correnti. Ehi, rimane maldito, Matti, il balletto, riapre il balletto. E se dall'inente rimane, sarà il computer, i balletti. Oh, Ettore, senza motore, ancora in giro con il cupolo. Ehi, beh, ciucu ciucu. Ehi, Luca, a mare se ne è andato. E Luca Lupo, a Sardina. Marino già da travagliere, invece rientrava nei bari. Mangio travagliato. Oggi abbiamo fatto pesca a lui. Pesca? Ma chi sa pesca? E che è bella per fare? Non si trova lì. Ora famo un madronia lì. Ma, alla tracco, tracco. Ma un travaglio l'ha già fatto oggi. Io. Ma io mi sono cominciato. Allora tutto un quarto, no? E mi sono pensato che erano le robe manco vinti. Maggio pulito la stufa, maggio fatto la babba, mi sono cominciato e si è messo a fare il peso. Siamo rientrati ancora. No, mi faccio tutto qua. Solo io, a me bisogna di capire. Lei va, tutti i miei giorni, dice bottiglie, fatte le vigili. La vittoria ha due cartoni d'acqua. E poi fa due tutto, lì. Più male, lì là. Vestito, qua. Allora rimane la giubbata sul passamento. Mi ha dato la risposta entro l'11 o il 18. Che c'è di sì? Oh, Bersano, pensa solo se è sano. Oh, ma dici, ma l'ho segnata per quanti giorni ci metto. Vabbè, ti sono ripetuto. Allora, in capetta si butta il dito, oggi l'albero si sposta. Ah? L'albero di Natale oggi si sposta. Ah, domani? Sì. Domani? E domenica mi. Domenica si conta. E domani? E se uno riconta oggi cosa succede? Ha detto domani è domenica. Domani si travaglia. Ehi, ma ho detto, l'albero di Natale si sconcia domani, o oggi. E oggi forse. Dice minore mi aveva pigliato dalla strada. Un babbo di sicuro, un babbo natale di vettura, piccato. E e tu buon cuore non sarà fatto. Se non lavori così è. Ehi, il Babbo Natale al commesso, che era per ogni anno pure della ringhiera, quello che sale sulla scala. Fallo bene, ma non si chissi qua, si avvi. Ehi, già è pronta la cassola. Ogni anno lo buon che la cassola, la chiudo bene con un altro. E c'è sempre anche l'animale, la chiuda bene la rimuovo sopra. Dopo cerco cosa lascia il sole. Ha tutto tre cassole in mano. Dell'albero, il presepe, tutti i ballini, i lampadini, la neve, e saremo uniti. Anche se quest'anno quei 12 ballini li abbiamo preso in giro. E l'ho visto. Parami tutto. Il buttore non si intende i brutti, mi aveva indignato, che va a penna tutti qua. Sì, Tore sarà travagliato, se devi attaccare apparecchio, prima bisogna fare il dovere. Ehi, ma chi lo sta in casa qui, andiamo. Ah! Ci ho preso! Cosa penni, babbi miei? Lo so. La stella di tutti, poi se mi rimasto uno. Aspetta, non mi avevi messo attaccato sul paiocchio. Prima si fa di dovere si rifata, poi si fa tempo, si assente l'apparecchio, se no pazienza, cazzo. Ehi, ma bisogna fare i doveri. Ehi, ma Tore, si è prendignato, tu. Marino, questo è un altro pipistrello, a Russi. Luca, e per i bagnotti, a domani. Chi ti sarà dormito, a bocca aperta. E tu sei più fare il denti. E io vendo travagliente e fare il denti. Non va in dicembre. Se non muori pure di questa frequenza. Va bene così, quando è possibile si c'è la mezzezza, quando pazienza, capito mi hai bello bene. Ma padre, quale c'è adesso, il piccolo o il grande? Oh, il piccolo, il cucinato qua, dopo tu, si trigate in alta la banca, ha smontato, adesso dolli, la va in terra, bene. E niente, la venne in terra e ci sta visto all'aria e mi ha voluto la stufa, mi ha voluto il vinto, mi ha fatto il vinto con i gossi e da appunto là l'erolato, ma là l'orato, il porro con il bastato, la gassopa con il bastato e il truba che sta giù e la bella vita. Capito mia, è bello bene. Aspetta, io devo fare cose un attimino. Vai, vai, chiama. Già sono qua, a disposizione. Bello bene. Mangiando stai, bello bene. Già. Ehi, io. Vai, c'è gente, grazie a chiudo, vai, io ci sentiamo stasera. Unici di cura! Ciao! Francesca! Ehi, io! Ma che gufo! Ehi, è gufo gatto! Capito sì! Giovanni è dormito! Io sono arrivato adesso, dai, va a casa, no? Sono arrivato uomo a ora. E lei ha detto di separare in campagna dalla Rossegni e chi ti fai i bagnotti, Luca Gufo. No, domani in campagna. Mio Maria è giunta ieri. Ma scusa, ma mangiate la festa di Bandoro, io. Maga, mio Maria. E allora, sempre mangia del Bandoro. A te, Giovanina! Non se ne può! Un ambulante. c'è Frizzantello. Poi ti lascia un'ambulanza per palazzo tuo, a chi hanno portato via. Però qui sta entrando un'ambulanza nel mio palazzo, però non ci sono passato in piazza a guardare dove era, nel mio portone. Non lo so chi ci hanno portato, non lo so chi ci hanno portato. Ehi, al tuo portone, sì, infatti tu va, diciamo che non abbiamo la diossina piccolina in mano. Davvero? No, metti così in casa, perché c'è anche lì l'ossigeno. Un gioco che la bomba dell'ossigeno piccolina, venga, dammi là, mi ci Sto mangiando un pezzo di sedano con l'olio che mi ha regalato tutto buono. Stai bene, no? Ehi, gli auguri fatti gli hai a mare. E c'è tanto regalo che ho fatto. La scopa colorata mi ha regalato. No, una scopa senza marmitta. Sì, allora è rumorosa. Ehi, io. E la carpetta col carbone regalata. Non mi ha voluto. Ha voluto altro. Neanche mia moglie, ieri, io ho fatto un'altra presa la scuola. Sì. E infatti c'è la capo, in te. In te sarà. Ehi, Rosy, piccalo. Piccalo a tuo marito, piccalo. Oggi ho preparato il sugo con le cose. Spaghetti con le cose. Orate in forno con le patate. E patate e carciuffi. Allora noi pollo con le patate, se con i zendi. Ma il pollo è quasi gotto, eh. Poi piselli con i cosi, con le seppioline. Seppioline e piselli, ravioli. Oh, oggi. Orate in forno con patate, spaghettini, con le cose e patate carciute. E poi c'è prosciutto affettato, pancetta affettata piccantella, taglio, e mille cose di mangiare. La gana, bibù. Ah, che tu già, aspetta che giù al pollo, aspetta. Eia. Aiuto che c'ho fame io, aiuto! Si chiama tutti lo subito, subito il forno è fatto, e lo fai! Attenta, bella me! Eia! Pure qua tra un po' è pronto, eiu! Pronto, avevamo un po' di insulina, e lo fai! E metto la pentola! Io adesso taglio i graudioli. Vabbè, ci sentiamo stasera. Ciao, bimbi. Buon appetito a tutti. Non ti nascondi. Bacioni, bacioni. Buona beffanata. Ciao. Ciao, Gufo. Grazie di essere qui. Che sono belli belli. Va bene, grazie. Buon pranzo anche a voi e buona cena. Stasera, ciao. Come la fai mangiare la platta stasera? Ciao. Grazie altrettanto a lei, un bacio a tutti e buon pranzo e buona Befana. Poletta, anche a te, Uruni, la scopa messa in moto stamattina. E allora, la vostra qui al canto del gallo. Oh, è silenziosa qua. Stamattina mi è partito una sbalmica. Ehi, va bene, a stasera, ciao. Cracchecca! Cracchecca! Illu! Mussi, mussi, mussi, mussi! Mussi, mussi, mussi, mussi, mussi! Cracchecca! vuole unghie per farti il sugo? Ha detto uffo! Cucinando stai? Sì. Il boia, il boia. Ciao, dove? Aspetta, ehi, fai con comodo, non c'è problema. Antonello? Antonello, sì. Ci sono, dimmi. Come siete? Sono a Sant'Orsola. Segnale 5, radio 5. Già, va bene. Che sono andato a caricare due motori marini. Stai andando, Cos'è? Mi senti? Antonello. Dimmi. Mi senti? Adesso sì, dimmi. Ho detto, sono andato a caricare due motori marini in barca. Devi fare che cosa? Non ho capito nulla, no? Hai capito? No, non l'ho capito. No. Ehi, tu sai se parli che sei in movimento, no? Non ti sento a volte. Se ti fermi in un punto e mi chiami, devi capire cosa hai detto. Antonello. Ehi. Mi senti? Sì, ti sento. Non mi hai capito. Non ho capito. Ho detto che già ti sento io. Sono a Sant'Orsola. E cosa stai facendo a Sant'Orsola? A mungere le pecore. Sono andato a caricare due motori marini di barca. Hai capito? Due motori marini di barca. E dove vai? Mica c'è la barca tu. Per tuo fratello. Ti dico sono, ti dico E adesso le sedie le devo portare al circolo, dobbiamo scaricare e mettergliele in cucina, vediamo un po' dopo. Dove sistemarli, hai capito? Ma scusa, cosa se ne fai dei motori quando manca il timone? Boh, no, quello deve comprarsi un timone nuovo, piazzarglielo, il motore già ce l'ha. Adesso vediamo. Lui mi ha detto, dice, scendi giù, fai il favore, caricali e poi ci vediamo al circolo. Ci vediamo al circolo. Ho capito, ma io non capisco cosa se ne faccia di due motori per la barca quando non c'è il timone. Cazzo. Scusa, cosa cazzo se ne fa del motore? Non se ne fa nulla. Prima si deve comprare il timone nuovo, si compra il timone nuovo e se lo piazza e dopodiché li metti al limite se trova due motori che sono compatibili per... non dico pure, dato ne fai uno. Sta anche bene, la barca è buttata lì. Non lo so. Comunque mi ha detto portameli qua e poi vediamo un po' come sistemarli, dai, capito? Possiamo fare spazio e vedere un po'. Ho capito, Cosa ridda, Sono qua alla bretella adesso. Allora, sai cosa, cazzo? Sempre bene ti arrivo, no? Quei timoni, quei motori, li porti e li metti in coso. In cucina poi da due ne farà uno, senz'altro. Magari avranno regalato, niente di strano. Cappa. Graziano, ci sei? Gufo triste, Graziano, ci sei? Lo chef ancora non c'è. Non c'è. C'era poco fa. Adesso si portava due secondi e poi rientrava. Graziano, attenzione Graziano. Dimmi. Eia, ciao Graziano, come ti senti? Prova, fa passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. Bene, bene, un po' di scusato, va, perché sono dei bambini io, capi? È perché io come sono? Sono un antennino. Il domino della radiolina. Oi. Antonè. Aspetta, ti questo leggermente meglio, segnale 2, sì. Ah beh, io sto ascoltando con l'antenna orizzontale, ecco perché. Non so con la verticale. Tonello, sì. È l'unica antenna che funziona, ragazzi, questa. Cioè, l'unica. Anche l'altra funziona, ma... è tutta la... da vedere, tutta la vedere. Oh, yeah. Scusate, manco botto ti sento. Graziano. Antonello. Perché sei così basso? Me lo bei. Vedi, ti un punto buono, grazie, se no non ti sento. Ciucucu. Uissa. Accendi la 27, me lo bei. Non posso accendere la 27 che tanto fa poco sto uscendo, devo andare vicino al Cittamercato a comprarmi un paio di pantaloni. Mi potete portarti da presso e parliamo di qua. Ehi, oh, poti velano, dimmi. Domito sei, però bene. Eia, segnale 4, segnale 2, già arrivi comunque, già ti sento. Poponia. Graziano, sei basso, basso, semi. Aspetta che me la sto fischiando. Calmo, calmo, aspetta 2 minuti. No, per quello ti sento meglio adesso. Aspetta un secondo. Luca, non faccio sì. Oh là là, oh là là. Beh, Giuseppe è già arrivato, sì, al circolo. Wow. Adesso ti sento, polpo 1. Adesso ti sento bene, ti sento. Ehi, appena proprio. Cazzo, ci sono stati 2 motori di macchina attuale. Cazzo, sono più grandi di quel televisore che abbiamo caricato ieri. E infatti, come cavolo c'è fatto entrare non ho capito. È un jukebox con la macchina attuale. Ah, già ti conviene per prendersi un fiorino a te, prima. Almeno fai un po' di viaggi. Ci metti la roba dentro, a scala, quello che è. E sei tranquillo. E vai a tingere, cazzo. Appartamenti, fai prima. O pinzello, fai prima. E guarda che a tingere pigliano un sacco di soldi, me lo sai. Non minimo di 500 euro prendono, me. Per tingere un appartamento. Sto dicendo, conviene tingere appartamenti, prendi un rullo, anzi neanche il rullo, adesso si usa quella specie di compressore americano, ci metti la tinta dentro, diluita bene, pigli e stuzzi, altro che il rullo, tutto in nero, comincia un appartamento, poi ne fai un altro, poi ne fai un altro ancora, e fai anche veloce, non solo l'altro. E allora vero cazzo ci sono, ce ne sono tanti per strutturare, ma saperne prenderne uno, due, tre, bisogna che faccio un giro a vedere e chiedere, secondo come adesso vediamo un po', facciamo, perché c'ho già, mi sta venendo il mal di gambe e sto facendo stammene qua a casa, però facciamo antenne se la piglia in culo. Ma che preventivo, si va bene, bene, se non sei stato... Posso, sì! Sì, per tu che cosa ha cazzato a farlo, ma sta pigliando la mola. Fai il taglio con la mola, ci infili i tubi da 20 ed è fatto. Perché tutti fanno così adesso, non ne usano più matetta e scalpello a parte della canna, no? La mola, una mascherina, una bella tuta di quelle bianche che vendo lo spi e mezz'ora ti sei fatto la traccia, dopodiché passi con l'intope, tapi tutto e in tempo di un giorno e mezzo è pronto a infilare. Dormito sei, ho caduto da l'uretto di sei cacciuti, me lo pei. Vabbè, già non ci sono problemi per quello. Non ti preoccupare, già non ci sono problemi. Quello è centralizzato. Non li bastano 2.000 euro. sto per quello centralizzante, perché ci vuole il come si chiama, quella lì, il patrizzone da, per gli appartamenti, e ce n'è da fare, ce n'è, vari così. Prima c'è l'amplificatore, dopo l'amplificatore ci deve scendere con i partitori. Ogni piano deve metterci l'attenuatore, perché nei piani bassi ricevi di meno, nei piani alti ricevi di più. Cioè in pratica allora ci vuole l'attenuatore sopra, deve fare il contrario. Vabbè, ma quello già non è un problema. Ci sono gli schemi, e già loro dicono loro come fare. Vabbè, quello sì. C'è Luca che vuole, lo fai giornata, fai prima, 50 euro al giorno non le prenderai mai, ma già una volta finito l'impianto già li incassi i soldi, auguri, ci piegherai 3-4 giorni, però almeno sei tranquillo, una volta che li fai per 20 volte l'accettano, tu sei a posto. E se ne trova gente che possa fare la fattura, non ti preoccupare, basta anche un amico che c'era, un tecnico, hai capito? Facciamo fare il preventivo da lui, e poi noi paghiamo solamente l'IVA a lui, basta, tutto il resto ce lo prendiamo noi. Il polpo. Daniele, non lo può fare Mario fatture, è già la riga è serrato. A Daniele posso chiedere, basta, come facevo prima. Facevo i lavori e gli pagavo l'IVA, capito? Quel lavoro me lo facevo io. Esatto, sì. Noi ci mangiamo la parte nostra, poi lui, basta che noi diamo i soldi dell'IVA a lui. Perché quella deve versarla per forza. Ogni fattura che fai, insomma, mi sembra il 20% di IVA, se non mi ricordo. Va bene. Vabbè, se c'è Graziaci, sì. Graziano. Sparito Graziano. No, non l'avete sentito a manco la verità. Stamattina sto facendo la roba già. Non sono neanche uscito stamattina, figurati tu. Però se avevo portato il coso, il mio portatile digitale, perché contro la mia e il suo non combaciano, sono diversi. È un'emissione totalmente diversa, è sempre DMR, però è un'emissione diversa. Quindi si accende il LED verde, ma non sento l'audio suo, e lui lo sente a me. Perché abbiamo già fatto la prova con Stefano. Ah beh, quello sì, un quanto che ci sentiamo lui, poi il resto se la tiene in Napoli. Beh, va bene, adesso lo ascolto anch'io, poi al limite già ti chiamo dopo, ok? E io ciao. Vabbè, grazie, grazie, grazie, Gufo! Attento, Giovanina! Ciao Cesti! Attento, Vapodio! Dicami tutto, parlo senti a Luca Giuseppe. Luca del Monte. No, non arriva Giuseppe qua. Altro che non arrivi Giuseppe da lui. E il gattolino, Luca, ecco perché non vi sentite. Non te l'ascolto manco a te, Pompo. Ritua. Luca. Ehi, a Pompo. Ah, già mi senti allora. Pensavo non mi sentivi per niente. Ti ascolto un po' così, non bene. Un po' così così. Eia, tu sì che te ne freghi, Luca. Cos'è, Pompo? Io sì che me ne frego? Eia, ti hai detto a casa, sì. Non ti sento, Pompo, non ti sento. Io non ti ho neanche chiamato, ma io già ti sento. Adesso ti sento bene. Hai visto? Pensavo che non mi tiravi fuori. Però Giuseppe non arriva qua. Giuseppe è in via Torino, è in zona ombra, capito? Se vai in via Delante lo senti benissimo comunque, perché in via Delante è l'unico punto dove arrivi tranquillamente forte. Sì, non si sta bagliando in via Delante, ma fa vedere con Giuseppe. Vabbè, adesso Giuseppe è entrato al circolo. Ma lì a Lunghianera? No, da fratello è andato. Oh. Attento, gufo! Che non lo va a fare gufo, poi è sparito, gara. Ciucca, ciucca, ciucca, ciucca. Attento, gufo! A 20 siamo, a 20. Ah, Pupu? Ah? Cosa ha detto? Che siamo a 20 lì, ho detto. Ma non sono entrati, no? Non ho votato nessun altro. E lui? Siamo sulla 27, e io? Antonello. Ah, sulla 27, sì, ho capito. Come vai? Luca, te suoi, troppe! Ma che tuo gruppo? Sulla 27 siamo. Ma che tuo gruppo? Pepe, morbito sei. E animi, grazie. E beh, già fatta là. No, ora come sto la cipolla a soffriggere. Buona, buona, il subetto già fatto là, col macinato. No, ancora non è immaginato. Mi fanno immaginare la garota a quadrettini piccola, ben attrezzata, che esce un bel ragù. Capito? Mi seguo a vedere di nuovo che dà, perché sono distante dalla parecchia adesso. E che io ti tengo a te. Sono portatile e la radio. Comunque le funzioni penso che più o meno siano uguali al tuo, da questo a quello tuo, più o meno sono uguali le funzioni. Oh, vabbè, ma la batteria si è assicurata, questa è la 1.800, mica è la 3.800, boh, va. E la chiamo a bene, va. Aggiungi che mi ha preso, non so se me ne ho preso un'altra che va bene anche per quello. E la chiamo a bene, va. Va bene, alle Q4, Q5, Q6, Q7, Q5. Chi sarà, fate passare il tempo. Ma con la conferma, con 11.17. E a me ci ha messo più o meno una settimana, 8 giorni. Adesso non lo so, ma davvero ordinare. Hola, hola, hola. Arrotole già vestito, bello bene. Aspetta, gufo. Non mi tocchi, gufo. Vai bene a rotolare il macinato, la cipolla, la carota. Bello bene, quello puoi amalgamare bene bene. E il macinato messi, bello bene. Ciao, ma buono, non li pongo basilico, ma con carota non ne ho. Cioè, con il misto soffritto, però non va bene lo stesso. Deve essere semplice. Deve essere semplice comunque il sugo. No, il sugo l'ho fatto lei. Ha ragù, bello, esattissimo. Buona vita. Ti dai dico poi, non glielo metti, no, glielo metti. È stato per il capolino. Se non si piace, venga a Romagna. Se a te non ti piace, non lo metti. Lo leggi dopo che l'hai destinato, no? Ehi! Ehi, terra dal fuoco, allo stesso. Bello bene. Sì, va bene. Darò a retta a te. E come se il babbi a me l'aglio non mi piace. Ma se ti vuoi, ti lo pongo. Lo arroso e giù. Però da poi mi usava che a me non mi si dice. Non mi piace. Luigi, sto scendendo a piedi, tanto il tram è delle 6 di mattina, sto scendendo a piedi, il tram è già passato.